saber, para saber cómo hay que hacer, cómo hay que hacer para preparar una rica comida. Vamos a cantar, una bella canción, una bella canción, la vera polenta, la vera polenta. Cuando si pianta la vera polenta, la vera polenta si pianta con si, si pianta con si. Vera polenta con si. Cuando si crece la vera polenta si crece con si. Si pierde con si. Si crece con si. Vera polenta con si. Cuando si fiore la vera polenta si fiore così. Si pianta così, si crece così, si fiore così. Vera polenta così. Quando si tala la vera polenta si tala così. Si pianta così, si crece così, si viene così, si tala così. Vera polenta così. Quando si muole la vera polenta si muole così. Si piante così, si crece così, si viene così, si dala così, si muole così. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vera polenta così. Quando si cuece la vera polenta si cuece così. Si pianta così, si crece così, si fiore così, si tala così, si muore così, si cuece così. Vera polenta così. Cuando si mangia la vera polenta.